Giovedì 21 dicembre del 2017, 87.9 la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa, ci ascoltate su queste frequenze e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione le trovate sul sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale alla voce trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica e visionari@ondarossa.info. Con Gianfranco Pannone, regista del documentario Mondo Za, uscito in sala ieri, mercoledì 20 dicembre. Gianfranco, ben ritrovato su queste frequenze. Ciao, ciao. Come va? Bene, bene, diciamo che abbiamo fatto forse una piccola follia, vediamo come va, nel senso presentare un documentario prima di Natale non è facile, ma abbiamo deciso di fare una sfida, di sfidare i cinepanettoni, insomma. Qualcuno scherzato ha detto: ah, questo è un cinepannone. Allora, raccontiamo un po', intanto ti volevo chiedere, come, se non sbaglio, ieri c'è stata una presentazione, la tua presenza qui a Roma, sì, all'Apollo 11, ti chiedo com'è andata. Ma io direi bene, sai, questa si dice sempre bene, benissimo, ma no, è andata bene nel senso che, insomma, non era così scontato fare appunto una prima romana l'Apollo 11 il 20, quando siamo tutti un po' distratti da Natale imminente, dalla fine c'è quest'area un po' da ultimi giorni di Pompei, no? Prima di Natale, sembra. E da questo punto di vista quindi è andata bene, avevamo già fatto una prima a Parma dove il film è nato e poi abbiamo pensato di presentarlo Apollo 11, dove sarà in tenitura anche nei prossimi giorni, domani che è il 22, anche il 25 se qualcuno vuole passare il Natale diversamente, il 27 sempre con spettacoli serali, e poi a gennaio la Movimento Film, che distribuisce il film, lo porterà un po' in giro per l'Italia, dove lo accompagnerò quando posso anch'io, come faccio solitamente. Per ora abbiamo questa uscita romana e quindi stiamo vedendo se questa strana uscita curiosa può avere degli effetti altrettanto curiosi, insomma, ecco. Bene, bene. Allora, raccontaci un po' come è nato tutto. Ma il film nasce come un lavoro da un gruppo di lavoro che è nato su un workshop a Parma. Infatti praticamente quasi tutta la troupe è una troupe parmigiana reggiana, è caso di dire, e niente, insomma, ruota intorno alla figura di Zavattini, ma non è un film su Zavattini, ma è un film sulla bassa zavattiniana, come amo chiamarla, nel senso che c'è questo luogo in provincia di Reggio Emilia, Luzzara, ma anche i paesi intorno, proprio sull'argine del Po, che in qualche modo è fortemente influenzato dalla presenza di Zavattini. Zavattini tornava spesso in questi luoghi anche da anziano, amava la sua terra d'origine e in qualche modo riconosceva in essa una poeticità nascosta che magari poteva passare, che ne so, per i pittori naif e non solo Ligabue. Uno dei protagonisti infatti è un pittore naif di oggi che sembra uscito fuori da un racconto di Zavattini. Ho cercato, a partire da Zavattini, di ricreare nella bassa, come dire, un'atmosfera zavattiniana che è fatta prevalentemente di curiosità verso il mondo, verso gli altri, ma anche, come dire, di quell'andare a trovare tra nell'apparente solo razionalismo degli emiliani anche quella vena, come dire, di follia un po' malinconica, e confrontandolo ovviamente anche con quello che arriva dall'esterno, che sono i migranti. Sì, sì. Senti, come hai scelto i tuoi protagonisti? Ma i testimoni li ho scelti andando sul campo, ho fatto, sì, un lavoro sul campo insieme a Primo Giroldini, che coproduce il film, a Nico Carrato, che l'ha scritto insieme a me e a Primo, e siamo andati spesso sul campo, abbiamo incontrato delle persone e quindi li ho scelti sulla base anche di una diversità, non solo fisica ed età, ma anche, come dire, culturale per certi versi. Per esempio parlavo di Pavone, il pittore naif, che è un signore di 70 anni, però c'è anche Weiner che ha, insomma, appartiene un po' alla mia generazione, un cinquantenne rimasto in mobilità con il lavoro, che va a pescare i pesci siluro al Po e che in qualche modo è stato anche una sorta, un po' un rocchettaro, ma specialmente il capo fan dei Nomadi, no? Gruppo mitico, insomma, che conosciamo bene, e che in qualche modo vive con difficoltà il rapporto con un territorio che non è più il luogo del socialismo al volto umano di un tempo, ma che subisce un po', come dire, le incertezze del periodo che stiamo vivendo ora. E poi c'è Prince è un ragazzo di 20 anni del Ghana che rappa i versi e le frasi di Zavattini, ed è il miglior conoscitore tra i giovani zavattini. Cioè, metti i ragazzi di Uzzano non lo conoscono, Prince che vive da 7 anni qui e che adesso ha 20 anni, ha cominciato anche l'università, un ragazzo molto in gamba, molto intelligente, si è innamorato di Zavattini e a un certo punto poi nel film ha scoperto, durante il film che è durato un anno, le riprese sono durate 1 anno e mezzo, ha scoperto anche la figura di Ligabue, ha dedicato un'altra canzone anche a Ligabue, alla quale a sua volta Zavattini aveva dedicato dei versi. E quindi è un gioco di connessioni. Ligabue, specifichiamo, il pittore, non il cantante. Il pittore, non il cantante, il pittore naif, hai ragione a ricordarlo. No, ma escono fuori dei stati cortocircuiti che mi hanno molto divertito, per dire, insomma. Prince scopre l'Africa che ha visto solo a 6 anni, a 7 anni, grazie ai quadri di Ligabue, no? Che dipingeva leoni, tigri. E che in Africa non c'era mai stato. E che la tigre magari non è dell'Africa, ma insomma leoni e altri animali che non c'era mai stato. Per cui in qualche modo c'è l'Africa di Ligabue e c'è la bassa di Prince Brown, che appunto è il nostro cantante, che l'attraversa un po' come se fosse a sua volta una piccola Africa. Insomma, queste interferenze del tempo e dello spazio, quindi un film tra passato e presente, ma anche che in qualche modo va a guardare l'Africa, anche se è una chiave diversa, a me incuriosiscono e divertono molto. Ci sono anche delle pillole, dei piccoli tributi a Zavattini, certo. Con dei filmati di repertorio. Sì, poco repertorio in realtà. Sì, sì. Ho utilizzato poco repertorio volutamente, ma sono dei piccoli che vedono Zavattini anche so stare al bar, magari con i vecchi del paese, negli anni '80. Appunto ormai anziano ma sempre molto vivace, addirittura in un piano sequenza si vede che lui col passo svelto, ormai ottantenne, che camminava con questo passo svelto, ma c'è soprattutto la voce di Zavattini, perché ogni tanto Zavattini, ne abbiamo fatto una sorta di narratore, abbiamo scelto dei brani dall'archivio dai materiali dell'archivio di audiovisione del Movimento Popolare Democratico, ma anche della RAI, dei brani in qualche modo in cui lui racconta il rapporto con la sua terra, con la bassa, con la sua poeticità e con la sua anche veemenza. Ed è interessante, appunto, non c'è una voce narrante in questo film, ci sono i testimoni, ci sono qua e là dei materiali di repertorio e poi ogni tanto torna questa voce di Zavattini, di cui abbiamo scelto, come dire, le parole che sono più legate alla sua terra. Comunque, al di là dei personaggi, fisicamente sembra un luogo sospeso nel tempo. È un luogo sospeso nel tempo due volte, ti dirò, perché è sospeso nel tempo perché è una piana che non ha un orizzonte. La malinconia e l'ansia del nuovo degli emiliani dipende anche da questo, insomma, c'è solo il Po che fa da confine, ma in realtà in quella terra è passato Annibale, sono passati Gonzaga, sono passati i nazisti, cioè è stato sempre una terra di passaggio, quindi questo anelito, come dire, a vedere anche negli altri il mondo è molto importante, ha creato anche una coscienza politica nel tempo, però questo mondo è finito, per cui c'è anche una vena di malinconia che non è solo nel carattere degli emiliani, ma anche nella una storia che è finita, che è quella che Weiner, il pescatore di siluri in mobilità, per intenderci, percepisce meglio degli altri, perché lui sente che è finito quel mondo in cui esiste una comunità. Però questa comunità potrebbe essere salvata proprio da Prince e dai suoi amici, oppure dagli indiani, perché racconto anche la storia di Tilak e dei suoi fratelli che si occupano degli allevamenti di mucche nel territorio sempre di Ruzzara, e che in qualche modo un giorno potrebbero addirittura diventare i proprietari di qualche azienda, perché appunto sono quelli presenti, sono quelli che lavorano sodo e i loro bambini parlano con l'accento emiliano, questa è la cosa divertente. Quindi è un momento, è una sospensione sia storica che geografica, ma anche legata al nostro tempo, che in qualche modo potrebbe annunciare non necessariamente qualcosa di cattivo, ma anche qualcosa di buono. Però sappiamo bene, e questo è un pensiero politico, insomma, che oggi il mondo non può non contaminarsi, che arrivino barriere, scontri, razzismi di ogni genere. Quando la gente si muove non la fermi, è un dato oggettivo. Al di là che io penso che bisogna sempre accogliere, e le parole di Papa Francesco sono importanti per me da questo punto di vista, io credo anche che quando le persone si muovono, che piaccia o meno, si muovono, ce lo dice la storia, e allora pensare di poter creare delle barriere è assurdo, e lo è ancora di più, infatti non succede ancora per fortuna nella bassa emiliana, laddove non ci sono le città turrite, laddove non ci sono i muri, ma ci può essere solo un fiume che attraversa una terra, ma che comunque fortunatamente dispone di diversi ponti. Quindi che stiamo a dì, come si dice a Roma? Allora Gianfranco, in chiusura ci lasci anche i riferimenti web per saperne di più sulla programmazione e sì, su... basta andare sul sito di Apollo 11 per avere i giorni, perché poi io ho le date fino al 27, ma il film poi sarà ancora in programmazione anche i primi di gennaio, quindi basta andare, per quanto riguarda Roma, sul sito di Apollo 11. Poi potete seguirci sia sul profilo Facebook Mondo ZA, ma anche sul mio, volendo, Gianfranco Pannone, e anche su Twitter. Quindi insomma c'è modo per potersi informare, e come sai, chiudo, un documentario non ha una storia veloce che si chiude, un documentario dura nel tempo perché è difficile portarlo in giro. Quindi questa distribuzione per l'Italia durerà anche 3 mesi, toccheremo molte città. Ci potete seguire veramente sulla pagina di Facebook Mondo ZA, che mi sembra il riferimento più giusto. Senti, una postilla, una curiosità, cosa rappresenta Cesare Zavattini per te? Ma Zavattini è la libertà della testa, fondamentalmente. Zavattini era un uomo che poteva essere fortemente ancorato alla realtà, ma che poteva anche pensare che la realtà da sola non basta a raccontare il mondo. Per me Zavattini è Miracolo a Milano, è una favola neorealista, ed è un uomo mai domo. Io amo molto anche le criticità di Zavattini, infatti molti sono sempre rimasti spiazzati dalla figura di Zavattini. Chi è Zavattini? È un cineasta, è un pittore, è un poeta, è uno scrittore, e tutte queste cose, e in questo secondo me sta la sua modernità, cioè in un mondo che pretende in assoluto di creare dei compartimenti stagni professionali, Zavattini rappresenta una negazione che ancora oggi merita di essere considerata. È un gran peccato che non tutti conoscono Zavattini. Il film nasce anche in nome di questo. Mi sono accorto che non solo i ragazzi, ma tante persone Zavattini se lo sono dimenticato. Eppure sono una di quelle figure fondamentali del nostro Novecento che ancora oggi ha qualcosa da dirci. Bene. Gianfranco, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo, un abbraccio a te e a tutti voi. Ciao. Gianfranco Pannone, regista del documentario Mondo ZA, uscito in sala ieri, mercoledì 20 dicembre. Raffaele Brunetti, regista del documentario L'altra rivoluzione, Gorky e Lenin a Capri, in streaming gratuito dall'altro ieri, dal 19 fino al 29 dicembre, sulla pagina del sito internet della radio e anche sulla pagina Facebook di Visionari Radio Onda Rossa ho messo il link di riferimento. Raffaele, intanto ben ritrovato. Ben ritrovato a te, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori, e grazie di aver diffuso la notizia dello streaming che abbiamo deciso gratuito almeno per una decina di giorni. Ne avevamo già parlato in occasione della prima uscita del tuo documentario. Siamo nel centenario della rivoluzione russa, ci parli un po' di questo lavoro, di come è nato il progetto, di come l'avete sviluppato? Allora, diciamo, questo è un progetto che ha una parte di, perlomeno di motivazione, di approccio personale, nel senso che quando io ero piccolissimo a casa dei miei nonni a Capri, passavano dei turisti russi a guardarla. Io chiedevo, mio nonno li scacciava in maniera e diceva no, questi sono dei seccatori, vogliono venire qua perché in questa casa ha abitato un famoso scrittore russo, e mi era rimasto questo ricordo. Molti anni dopo ho fatto delle ricerche, e qui siamo al periodo insomma successivo al crollo dell'Unione Sovietica, quando si iniziavano a desecretare i documenti di quel periodo, e ho scoperto che Capri è stato un momento molto importante e determinante per la rivoluzione russa, nel senso lì ha vissuto Maxim Gorky, il più famoso scrittore russo, che era in esilio, mandato in esilio dagli zar, e lì ha iniziato ad ospitare non solo colleghi artisti, anche loro in esilio, ma man mano anche rivoluzionari, bolscevichi, la gente che si preparava per la rivoluzione. E lì ci sono stati Bogdanov, Lenin e figure molto importanti poi in futuro per per quella, per la rivoluzione. Era una storia sconosciuta. Oddio, che Lenin fosse stato a Capri era qualcosa che si sapeva, ci sono anche delle foto, dei quadri anche, ma che fosse stato a Capri per preparare la rivoluzione, o meglio che a Capri fossero successi degli eventi importanti, determinanti per quella che poi è stata la rivoluzione, è una cosa che non si sapeva e che abbiamo scoperto leggendo la corrispondenza. Abbiamo tradotto più di 700 lettere ricevute e spedite da Capri da Gorky, dove è uscita fuori una realtà sorprendente, e abbiamo deciso, utilizzando questo materiale, di fare il film. Sì. Senti, quali sono i materiali emersi? Quali verità rispetto a questi preparativi della rivoluzione? Beh, non è semplice. Beh, intanto a Capri era stata aperta la prima scuola rivoluzionaria della storia. Vennero portati una quindicina di operai, molti di loro venivano dalla Siberia, e venne aperta la prima scuola del proletariato, le scuole del Prolet Cult. Poi dopo, anche dopo la rivoluzione, hanno avuto una grande diffusione, ma questa è in assoluto la prima, perché l'idea, diciamo, dei capresi, tra virgolette, dei rivoluzionari, di quelli che tramavano da Capri, era quella di elevare il livello culturale, la coscienza del proletariato, per metterlo in grado di fare la rivoluzione. Questo è un motivo per cui poi riporta in contrasto con Lenin, che invece pensa poi a una rivoluzione, insomma, diretta dall'alto, insomma, prendere il potere per poi riuscire a migliorare le condizioni del popolo e a sfamarlo. Questo è uno dei motivi per cui dopo questa scuola si spacca e entra in contrasto. Comunque, dicevamo, la prima scuola rivoluzionaria è un sacco di intellettuali, Lunacharsky e tantissimi altri, che anche Trotsky, che passano per Capri a dare lezioni di rivoluzione. Lì si studiava agitazione e propaganda, ma anche la storia, si facevano delle gite a Pompei. Insomma, questi operai, quando arrivano dalla Siberia, credono di essere presi in giro, perché arrivano in questo posto meraviglioso, la natura meravigliosa, dove ci sono dei ricchi e dove casomai ti puoi aspettare di trovare più dei parenti dello zar che non dei rivoluzionari, e invece capiscono che è vero e che Gorky li ospita a casa loro, e ci sta questo periodo molto intenso. Sono almeno 7 anni dura questo periodo di Gorky, fino alla rivoluzione, insomma, sì, fino a quando poi lui rientra per la rivoluzione. Dopo la rivoluzione Gorky ritorna in Italia, vuole tornare a Capri perché ha dei problemi, non aderisce completamente a quelli che sono i risultati della rivoluzione, ma nel frattempo c'è il fascismo in Italia, quindi viene fermato, non riesce ad andare a Capri e si fermerà altri anni a Sorrento prima di rientrare definitivamente in Russia, paradossalmente, perché è chiamato da Stalin. Quando Stalin lo chiama, lui invece rientra e diventa di nuovo, diciamo, il capo ufficiale della cultura sovietica. Senti, di questi 7 anni esiste una documentazione di un certo rilievo? Allora, esistono senz'altro queste lettere, che sono importantissime e bellissime, perché Gorky ovviamente aveva una fittissima corrispondenza, diciamo, era un po' come il telefono, perché noi abbiamo lettere ogni giorno, e poi ci sono conversazioni anche che durano mesi, però abbiamo trovato lettere, le risposte, le controrisposte, quindi c'è questo materiale qui. E poi noi abbiamo trovato delle immagini filmate, dovrebbero essere intorno al 1907-1908, che sono tra l'altro le più antiche immagini filmate che si conoscono dell'isola di Capri, anzi, quelle prima che noi ritrovassimo queste, le più antiche erano addirittura degli anni 30, quindi un documento molto importante che abbiamo trovato per caso in un archivio russo, facendo delle ricerche molto estese. Ed è molto interessante perché si vede Gorky che esce da uno stabile che abbiamo identificato come un palazzo proprio del centro di Capri, vicino alla famosa piazzetta, e si copre il volto, cioè alla vista della cinepresa si copre il volto con il cappello. Adesso non so, siccome nelle descrizioni di Gorky si parla anche di spie russe che facevano anche riprese filmate, abbiamo pensato che potesse essere una ripresa fatta dai servizi russi che cercavano di controllare questi esuli un po' in giro per l'Europa. Sì. Senti, Raffaele, allora avete deciso questi 10 giorni di streaming gratuito, per saperne di più i riferimenti quali sono? Allora, intanto ti voglio dire il motivo perché sì. abbiamo deciso. Ah, beh, certo. Allora, questo è un film che c'ha qualche anno, adesso mi ricordo esattamente, 7-8 anni, è stato prodotto un po' di anni fa. Ed ha avuto un riscontro molto forte, in particolare in Europa, ma non solo. È stato coprodotto con la televisione svedese, quella finlandese, la televisione tedesca, televisioni pubbliche parlo. Poi è stato acquistato da Histoire in Francia, dalla televisione svizzera. Quest'anno tutte le televisioni ci hanno chiesto il rinnovo delle licenze, cioè ce l'hanno ripagato. Io ero stupito, all'inizio non avevo capito che erano scaduti i diritti per mandarle in onda in occasione dell'anniversario. Noi quindi abbiamo riprovato anche con le televisioni italiane come facemmo all'epoca e la risposta è stata la stessa, cioè è una storia di nicchia. Cioè il fatto che la rivoluzione russa sia stata in parte o perlomeno eventi fondamentali per la rivoluzione russa, quindi poi per il futuro dell'umanità in genere, siano successi in Italia e a Capri, è una cosa che non è di nicchia per la Svizzera, la Svezia, la Finlandia, la Germania, la Francia, ma è di nicchia in Italia, dove evidentemente se non c'è un'ennesima biografia di Mussolini o la figlia segreta di Hitler, il resto diventa di nicchia, le televisioni dicono che non fa ascolto, quindi noi un po' stupiti abbiamo deciso di fornirlo noi in streaming gratuito in Italia, nella versione italiana. E quindi come si può fare? Beh, noi l'abbiamo comunicato su Facebook, sulla pagina Facebook della B&B Film, tu hai detto la vostra pagina. Sì, sì. Non saprei come dirti se c'è un indirizzo da leggere, non sono preparato, non sono bravo. Vabbè, i riferimenti li abbiamo, alcuni riferimenti li abbiamo dati, credo che basteranno, insomma. Ok, B&B Film, abbiamo pure un sito dove ci sono i nostri recapiti, se qualcuno non lo trova ci può contattare voi. E non so se leggere un indirizzo YouTube, non penso che ha senso, però se credi lo cerco. No, non ti preoccupare, insomma. Beh, abbiamo dato le indicazioni. Raffaele, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille, alla prossima. Ciao, auguri. Raffaele Brunetti, regista del documentario L'altra rivoluzione, Gorky e Lenin a Capri, in streaming gratuito dal 19 al 29 dicembre. L'indirizzo dove cercarlo è sia sulla pagina di Visionari sul sito internet della radio ondarossa.info, sia sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. Con Jacopo Chessa, direttore del Centro Nazionale del Cortometraggio, per parlare di Short Film Day al Cinema Massimo a Torino dal 18 al 24 di dicembre, quindi in pieno svolgimento. Jacopo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico. Allora, raccontaci un po' di questa iniziativa che non è al primo anno. No, guarda, è un'iniziativa lanciata dal SE francese nel 2010, cioè l'idea è mettere i cortometraggi al centro dell'attenzione per un giorno in sala in particolare, quindi farli uscire un po' dal circuito festivaliero che è un po' il luogo in cui sono confinati tradizionalmente i cortometraggi, e ha avuto molto successo perché adesso sono più di 50 paesi che celebrano il giorno più corto, il solstizio d'inverno, con cortometraggi. Noi coordiniamo un po' la parte italiana, per cui facciamo proiezioni, come dicevi giustamente tu, al Massimo a Torino, al Museo del Cinema, ma anche in altre città italiane, e soprattutto facciamo circolare questo programma di corti italiani negli istituti italiani di cultura, quindi è un corto, cioè un programma che gira anche all'estero. Rispetto alla scelta dei titoli? Guarda, risponde un po' a due esigenze, nel senso l'idea di dare una panoramica di che cosa si realizza oggi in Italia rivolgendosi a un pubblico generalista, quindi diciamo che devi coordinare un po' queste due istanze, cioè dare un po' il meglio, far vedere un po' insomma, meglio tra virgolette della produzione da un lato e dall'altro sapere che ti rivolge a un pubblico che non è specialistico, per cui l'idea è proprio che la gente che va normalmente in sala vede cortometraggi e non è lo stesso pubblico che va in un festival. In più aggiungo che sono programmi pensati anche per l'estero, per cui vanno in paesi che insomma in cui non si possono affrontare certi temi, mostrare certe immagini, quindi insomma è il risultato di una serie di condizioni, di istanze, come dicevo. Sì. Senti, il cortometraggio più in generale, sicuramente la rete rappresenta un buono strumento di visibilità, e invece rispetto alla sala che cosa è cambiato in questi ultimi tempi? Ma guarda, in Italia non c'è praticamente la circolazione sala, noi ne facciamo un po' di distribuzione sala, ma molto poco. Posso dire che anche nella nuova legge cinema non è che sia previsto, non sono previsti sgravi o incentivi per la circolazione dei corti in sala, no? Direi che non c'è stata un'inversione di tendenza. Quello che posso dire è che c'è una maggiore attenzione in generale, al di là della sala, e questo anche nella nuova legge cinema, alla forma del corto, ma in generale penso che in Italia ci si stia un po' svegliando su questo, per cui da un lato è positivo, dall'altro si direi negativo, comunque sia non c'è un grande cambiamento. Rispetto al formato c'è fermento, è in calo la produzione, la creazione, com'è la situazione? La produzione è sempre per parlare del caso italiano, sempre molto ampia. Ci arrivano tantissimi cortometraggi, sul diciamo che c'è per il caso italiano, sempre restando nel nostro paese, forse una mancanza un po' di strategia su come fare un cortometraggio, come farlo circolare, ed è un po' lì che interveniamo noi, cioè nel dare contatti, consigli e magari nel spingere i corti a circolare. Però posso dirti che la produzione italiana come quantità, non qualità, che poi insomma è anche un po' soggettivo, è comparabile a quella dei paesi europei delle stesse dimensioni dell'Italia, come la Francia, l'Inghilterra, eccetera. Sì. In chiusura ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Guarda, c'è tutto sul nostro sito centrodelcorto.it. Perfetto. Jacopo, un abbraccio, un buon proseguimento e a risentirci presto. Ciao Federico, a presto. Ciao. Jacopo Chessa, direttore del Centro Nazionale del Cortometraggio per Short Film Day al Cinema Massimo a Torino dal 18 al 24 dicembre. Sergio Ponzio del Cine Club de Tour per parlare con lui della programmazione del film Poesia sin fin di Alejandro Jodorowsky, sia stasera che il 28 dicembre, quindi giovedì della settimana prossima. Sergio, ben ritrovato. Grazie Federico, grazie. Allora, mi incuriosiva molto perché di Jodorowsky da tempo i film stentano rispetto all'Italia, raccontaci un po' tu. Guarda, sì, una vicenda distributiva sempre difficile, complicata, quella che lega Jodorowsky al nostro paese, non si capisce neanche bene il perché, dato che il regista ha un grandissimo seguito da noi, anche a Roma abbiamo contato nutrite schiere di appassionati, per non dire fan estremisti del regista, disposti a tutto pur di riuscire a prenotarsi, a entrare, ad avere il loro posto in prima fila o anche in ultima fila. E quindi un po' la miopia forse di certa grande distribuzione italiana, e grazie invece a piccoli distributori, in questo caso è una nuova piccola società di distribuzione di Roma, Mescalito, piccoli ma insomma combattivi, che hanno recuperato il film, in realtà che poi noi stavamo già trattando con il distributore internazionale a Parigi, e poi abbiamo scoperto che la stessa cosa stavano facendo loro, e dato che comunque poi ci si conosceva e ci si stimava e si era già collaborato in passato, abbiamo pensato di mettere insieme le forze e prendere questo film, che quindi il The Tour avrà in esclusiva per l'Italia per quanto riguarda queste prime 10 proiezioni che stiamo facendo e che di cui diciamo potremo vedere le ultime due, una stasera e l'altra, quando hai detto tu, che poi io neanche mi ricordo, il 28 e per l'occasione infatti il The Tour rimarrà aperto tra Natale e Capodanno, quindi non faremo le ferie lunghe come altre volte, ma avremo questa terna di grandi film, Dolphin Man, Poesia senza fine e Miles Ahead, che proporremo in tutte e tre diciamo le situazioni per come ultime proiezioni dell'anno, ma anche diciamo del nostro cinema tra Natale e Capodanno. Il film è il seguito naturale del precedente La danza della realtà, è stato un grande successo da noi al The Tour per quasi 2 anni, insomma è stato proiettato e continua a essere richiesto e anche in quel caso la distribuzione ha funzionato male, non per colpa del distributore ma proprio per forse poca capacità anche di comprendere da parte a volte dei grandi esercenti. È un film, anche questo, che ha delle grandissime potenzialità, a mio modesto avviso superiore alla danza della realtà, proprio per carica, per potenziale diciamo visionario, fra l'altro conta su una grandissima fotografia curata dal grande Christopher Doyle. Proprio a questo proposito, Sergio, ti dico che gli ho dedicato la copertina di questa settimana al buio, non avendo visto il film, ma proprio perché riconosco in Jodorowsky una grande capacità visionaria e un uso e un senso estetico delle immagini sorprendente, era il minimo dedicare questa copertina proprio alla sua cinematografia. Sì, sì, perché poi ecco le invenzioni visive di cui lui è ancora capace, nonostante diciamo la fase decisamente senile della sua carriera artistica, è incredibile, è folgorante come ancora riesca a creare immagini, simboli, rappresentazioni che sono così vivide e che riescono a rimanere così impresse in un pubblico anche giovanissimo, perché noi abbiamo un pubblico anche di a volte di minorenni che vengono a vedere il film di Jodorowsky, che è un ultra insomma novantenne, che è ancora riesce a emozionarli, a colpirli, a volte mi raccontano di folgorazioni nell'aver visto il film, che magari li hanno poi proiettati in una situazione diciamo di cambiamento della loro esistenza, cioè quindi cose che proprio rappresentano dei momenti clou per più di uno spettatore. Sì, e, sì. Che dire, è un film veramente da consigliare a tutti coloro che hanno passione per la poesia, per il grande cinema, per i grandi racconti, per i racconti che attraversano la storia, perché questo film essendo autobiografico come era il precedente, però nello stesso tempo è anche una rappresentazione chiaramente surreale, sicuramente filtrata diciamo dalla sua creatività di una fase storica, quindi anche di tutte le tribolazioni a livello politico e sociale che ci sono state prima nel Cile e poi in Europa, nell'Europa diciamo del conflitto mondiale, perché poi il giovane Jodorowsky si trasferirà in Francia, ma è soprattutto una grandissima esperienza di crescita, di formazione, quindi è un film di formazione sia personale, sentimentale che artistico, e lui si legherà ai grandi movimenti, alle grandi avanguardie artistiche sia in Cile che poi a Parigi in modo più compiuto, e quindi lì insomma sarà un'esplosione di colori, di liriche, di musica, insomma una sinestesia incredibile del vecchio giovane Jodorowsky che ancora sa emozionarci. Bene, allora Poesia sin fin di Alejandro Jodorowsky stasera e il 28 dicembre, quindi giovedì della settimana prossima, al Cineclub de Tour. Sergio, un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie Federico, grazie. Ciao. Un abbraccio a tutti voi. Ciao, ciao. Ciao. Elisabetta Stefanelli, curatrice della mostra Cinecittà, fatti e personaggi tra il cinema e la cronaca, cominciata ieri 20 dicembre, andrà avanti per tanti mesi fino al 7 maggio del 2018. Elisabetta, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti e grazie. Se posso dire subito una cosa, ecco, non curatrice ma coordinatrice, perché è stato un grande lavoro collettivo. Bene, e ci tengo a dirlo perché è anche un po' il senso, insomma, della mostra. Sì. Allora, ci racconti un po' come nasce l'idea? L'idea nasce dall'ANSA, che propone, vede, legge di questo compleanno di Cinecittà, che appunto ha compiuto ad aprile 80 anni tondi e entra nella città del cinema per chiedere appunto di fare un pezzo di strada insieme sull'idea del fatto che appunto Cinecittà, con l'Istituto Luce e in particolare l'ANSA, sono due colonne del Made in Italy con una grande storia. L'ANSA è un pochino più giovane perché ha 72 anni e un grande archivio di immagini e di, quindi, di fatti e di volti appunto da raccontare. Quindi così nasce l'idea. Rispetto ai materiali, qual è la proposta? Allora, si tratta appunto, tanto è una doppia proposta, perché c'è la mostra, come hai detto tu, che va avanti fino al 7 maggio, che è nel Teatro 1 di Cinecittà, che tra l'altro è il teatro che fu costruito per primo nel 1937, quindi non c'è luogo più adatto per questa mostra, che racconta appunto decennio per decennio, quindi in pannelli che sono relativi ognuno ad un decennio diverso, dal 1937 al 2017, i 10 capitoli della storia di Cinecittà, e quindi ovviamente del cinema italiano, ma anche della storia d'Italia raccontata dall'ANSA, quindi attraverso i fatti di tutti i giorni, quindi piccoli avvenimenti. Quindi coniuga un po' il mito del cinema con quello appunto invece, con la cronaca, i fatti, il racconto quotidiano. Potrebbero sembrare due cose lontanissime, in realtà per me sono, secondo me, molto molto vicine, perché poi la caratteristica, diciamo, di entrambe, un po' di Cinecittà come dell'ANSA, è quello di raccontare non da un punto di vista privilegiato, ma il pluralismo, tutte le voci, cioè cercare di dare conto dei punti di vista diversi degli italiani, ecco, non, sì, dell'Italia e degli italiani. Quindi nella mostra vediamo momenti anche, cioè, per esempio, per me trovo bellissima una foto della Dolce Vita, del set della Dolce Vita di Fellini, sulla appunto fontana di Trevi, un attimo di riposo dove c'è Federico Fellini che asciuga i piedi di Anita Ekberg, che è una foto ANSA. Ce n'è una meravigliosa di Anna Magnani che si fa il caffè. Quindi di anni gloriosi in cui poi tutto questo non si vedeva, no? Quindi secondo me una cosa anche molto molto interessante è il fatto che in realtà si rivolta un po' ai giovani, a coinvolgere i ragazzi, perché è anche un po' un modo di vedere il divismo prima dei social, no? Tutto questo in realtà era rubato dai fotografi della più grande agenzia italiana e non era il racconto privato appunto che ognuno fa per sé. Sì. Ti dicevo però un doppio appuntamento, perché in realtà la mostra nasce anche dal catalogo e non viceversa, che è un catalogo che abbiamo fatto ovviamente nella stessa occasione, che ha lo stesso titolo e che è raccontato con i testi di Giorgio Cosetti, in cui appunto c'è la storia e del cinema e quella d'Italia che si fondono, quindi con le foto appunto curate, quelle dell'Istituto Luce e di Anza, con una scelta curata da Mauro e Lorenzo Vallinotto e da Oggianu appunto per l'Istituto Luce, e da cui nasce poi la mostra che si avvale, questo ci tengo a dirlo perché poi alla fine apposta ti dicevo coordinamento, perché sì, sono sì. Tutti nomi di peso, con l'allestimento della mostra che è stato fatto da Lira Cappellini e Giovanni Licheri, che sono storici scenografi teatro, di cinema e di TV, che hanno fatto per esempio Indietro Tutta e che adesso hanno allestito anche la rievocazione televisiva dei 30 anni. Spettacolo di Arbor. Ci hai fatto un paio di esempi, però volevo chiederti anche se ci sono delle chicche, delle sorprese. Ma è tutto un po' una sorpresa, okay. Ti dico, perché in realtà insomma sono due archivi unici, no? Quello dell'Istituto Luce e dell'Anza, e soprattutto il taglio non è quello. Ci sono anche grandi eventi, però non so, per farti un esempio, negli anni '80 c'è la foto di Pertini che in aereo gioca a carte con Beazot, quindi sì, il mondiale non è raccontato, no? Nel momento, come dire, più iconografico, ma quello un po' del dietro le quinte, che è in questo senso un po' lo spirito della mostra, cioè raccontare un po' quello che vedono i fotografi dell'Anza e quello che è stata un po' la storia dietro le quinte per 8 decenni, che vedono anche, come dire, dei cambiamenti nell'Italia ma anche in Cinecittà determinanti, perché si arriva da appunto la Hollywood in camicia nera, gli anni 30, la prima pietra, e cioè, ci sono ovviamente di questo le foto messa da Benito Mussolini, che puntava ovviamente molto su la Mecca del cinema, poi il cambiamento con il neorealismo, e qui con delle foto bellissime, con una per esempio di Sophia Loren che per posa sopra una Fiat per appunto un rally cinematografico, l'Hollywood sul Tevere, la Dolce Vita come ti dicevo, e quindi momenti di gloria, momenti di rinascita e momenti di gloria per Cinecittà, poi con un lungo periodo di crisi, quello degli anni 70, che sono gli anni di piombo, quindi di crisi per Cinecittà ma anche per l'Italia, con gli anni 80 dove viene un po' fagocitata Cinecittà dalla TV e dalla TV commerciale, però nello stesso subito dopo, negli anni 90, si risale sul tetto del mondo con 3 Oscar, no? Tornatore, Salvatore e Benigni, quindi in qualche modo una rinascita. E poi nel 2000, di nuovo, devo dire, fine secolo, momento di crisi, perché poi Cinecittà torna a diventare set televisivo anche di reality come Il Grande Fratello, oppure della grande serialità come Il Medico in Famiglia, no? Quindi, come dire, momenti di storia fuori e dentro Cinecittà molto diversi e molto, molto significativi, raccontati in queste foto poi stampate in grandi dimensioni, con un bellissimo bianco e nero, ma insomma un altrettanto impressionante colore. Bene, allora ricordiamolo, la mostra Cinecittà, Fatti e Personaggi tra il Cinema e la Cronaca, da ieri 20 dicembre fino al 7 maggio. Elisabetta, un abbraccio e una risentirci presto. Grazie, grazie, a presto. Ciao, ciao, ciao. Grazie a voi. Lorenzo Faggico, regista del documentario Le allettanti promesse, che è stato premiato, uno dei documentari premiati al Festival dei Popoli di Firenze. Lorenzo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao, ciao a tutti. Lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta? Sì, è un documentario che racconta di questo piccolo paese di montagna sul confine tra Italia e Svizzera, che viene scelto per ospitare Wikimania, che è il meeting internazionale della comunità di Wikipedia. E quindi noi abbiamo seguito lo svolgimento di questo evento e tutta la preparazione che è partita circa un anno e mezzo prima, attraverso le storie di alcuni personaggi del paese che sono stati coinvolti nell'organizzazione. Sì. Senti, come avete conosciuto questa storia e come avete poi deciso di filmarla? Io sono della zona, nel senso che sono nato e cresciuto sul lago di Como e quindi diciamo che sono venuto a conoscenza di questa storia come tutti con molta curiosità, perché questo è un evento che di solito si tiene in posti come Hong Kong o Londra, e quindi l'aver scoperto questa cosa mi ha fatto molto incuriosire e quindi ho iniziato a frequentare questo paese e da lì poi sono successe un po' di cose, nel senso che nello stesso periodo in questo piccolo paese esinolario si è trovato a dover ospitare una comunità di migranti in attesa di permesso di soggiorno in una vecchia struttura che una volta era un hotel, adibita hotel, e quindi diciamo che la presenza di questi migranti rendeva ancora più particolare il setting in cui l'evento si sarebbe tenuto. Diciamo che è un po' l'idea è quella di un piccolo paese che è sempre stato un posto molto chiuso e isolato, che improvvisamente per una serie di motivi si è trovato a dover fare i conti con il mondo, la contemporaneità. Sì, sì. Intesa sia nell'ospitare questi 40 migranti che arrivavano da Africa e Asia, sia poi questi 700 rappresentanti di Wikipedia che arrivavano da tutto il mondo. Tra l'altro, per un paese che ha 750 abitanti ha significato raddoppiare le proprie presenze, quindi... Esatto, sì, infatti una particolarità di questo evento è che le persone, queste persone che venivano da tutto il mondo, erano ospitate a casa degli esinesi, degli abitanti, quindi c'è stato un coinvolgimento in prima persona di queste persone. Mi viene ad esempio in mente una delle cose più divertenti che ci siamo trovati a seguire è il corso d'inglese di queste signore, non so, tra i 60 e i 70 anni, che per ospitare queste persone una settimana si sono messe a imparare l'inglese per la loro prima volta. Ovviamente è una situazione che aveva dei risvolti sicuramente anche comici, però questo dava un po' il polso di come poi il paese ha cercato di affrontare questa che era più un'occasione, no? Per cercare di ritornare ad essere quello che questa piccola località una volta è stata, che era un posto turistico, no? di un turismo più locale, però ha vissuto un periodo di, diciamo, relativo splendore, no? Adesso invece un po' le cose si erano come in tanti altri comuni della zona prealpina, delle prealpi, delle nostre montagne, comunque poi le cose che si dovevano trovare ad affrontare, i problemi che ci sono comuni. Sì, sì, sì. Senti Lorenzo, una curiosità, che impressioni hai avuto rispetto agli ospitanti e agli ospitati facendo questo lavoro? Sì, partiamo dalla considerazione che appunto ci sono diversi tipi di ospitati, perché ci sono questi ragazzi che vivono una condizione abbastanza difficile, che sono ospitati loro malgrado, si trovano comunque in un posto dove hanno difficoltà a muoversi per andare in un grande centro, per provare a cercare un lavoro, quindi ci sono situazioni anche difficili, e uno delle persone con cui noi abbiamo legato, che abbiamo seguito in questo documentario, è proprio un ospite del centro. E io devo dire che non lo so, non mi sono ancora fatto un'idea definita, perché questo nasce come un racconto corale, quindi ci sono tanti diversi aspetti. Da una parte molta disponibilità e apertura e accoglienza e voglia e spirito di mettersi in gioco, dall'altra una difficoltà oggettiva di affrontare da parte degli ospitanti una situazione come quella di un centro di accoglienza che è un po' difficile da, da gestire. Quindi è, ci sono tanti, tanti elementi, a volte divergenti, e noi abbiamo cercato, diciamo, di rappresentarli con il mezzo del documentario, quindi con l'idea di provare a seguire le vite di queste persone senza una tesi preimpostata, senza interviste ad esempio, cioè cercando comunque di lavorare un rapporto di prima di tutto di empatia con le persone di cui stavamo raccontando le storie. Sì. Senti Lorenzo, dopo il riconoscimento al Festival dei Popoli ci sarà qualche forma distributiva? Sì, adesso stiamo cercando di portare il film in altri festival, sia italiani che internazionali, e alla fine di questo percorso, quindi credo entro la primavera prossima, la Bottanta, che è la casa di produzione e anche distribuzione, farà una distribuzione, non sappiamo ancora adesso bene come impostarla, però ci sarà la possibilità poi di vederlo. Un'ultima curiosità, la scelta del titolo? La scelta del titolo deriva da una canzone che un giorno abbiamo sentito alla radio e che è Le allettanti promesse di Lucio Battisti, e che parte proprio raccontando la storia di questo contadino che non se ne vuole andare dal suo paesello, non vuole mischiarsi alle altre persone, non vuole andare a giocare a biliardo, non vuole andare in discoteca perché i suoi animali lo fanno sentire meglio, e non so, questa cosa anche in maniera un po' giocosa per noi aveva delle analogie con la storia che stavamo tentando di raccontare. Sì. Bene, in chiusura allora diamo dei riferimenti web. Riferimenti web, c'è un trailer online. Sì. Sicuramente andando sulla pagina di La Bottanta Film, sì, si possono trovare tutte le informazioni sia sulla produzione, la sinossi, il trailer, e sicuramente in futuro anche poi date di una proiezione. Bene. Allora Lorenzo, un abbraccio, un ringraziamento. Grazie. E risentirci presto. Va bene, grazie da parte mia e anche da parte di Chiara, che è la co-regista del film. Ciao, a presto, ciao. Ciao, ciao. Lorenzo Faggi, co-regista del documentario Le allettanti promesse. Ritroviamo Matteo Pavesi, questa volta per parlare con lui dell'iniziativa Al Cinema Senza Pagare, dai 16 ai 19 anni, allo spazio Oberdan e al MIC, Museo Interattivo del Cinema, per tutto il 2018. Matteo, ben ritrovato. Ben ritrovato, grazie dell'invito. Questo è il regalo che noi facciamo a Natale per i teenagers, dai 16 ai 19 anni, che sono una fascia di età per noi molto interessante, ma che ahimè sono magari grandi cinefili perché guardano tanto cinema, magari di più di quando noi avevamo quell'età lì, però lo guardano in modo un po' disordinato, così, insomma, magari a pezzi e in condizioni non ottimali. Ci piacerebbe che con questa iniziativa questi ragazzi scoprissero magari cosa vuol dire davvero andare al cinema, gustarsi una pellicola, magari parlarne un po', ritrovare quella dimensione sociale che il cinema ha, lo spettacolo sul grande schermo, insomma. Eh sì, è perché è anche vero che si tratta di una generazione digitale, proprio per questo o anche per questo la fruizione del cinema in quel lasso di età è veramente ai minimi, se non sbaglio. Sì, è ai minimi, e per noi è ancora più, come dire, è una fascia che noi vediamo poco, anche per il tipo di proposta. È ovvio che magari le multisale sono per quella fascia d'età ovviamente più attrattive, però noi facciamo un ragionamento, in realtà insomma la platea a cui ci rivolgiamo è una platea davvero molto vasta, e penso che sia una bella opportunità per i ragazzi, al di là del fatto di affezionarsi magari a un luogo, di frequentarlo, ma quello di davvero scoprire, poter scoprire gratuitamente magari dei capolavori, dei film che difficilmente poi uno si scarica, si guarda sull'iPhone piuttosto che sul tablet. Invece così la gratuità dovrebbe essere un lascia passare che li convince magari ad affrontare, a vedere delle cose, non dico anche magari divertenti, che però magari non conoscono, ecco, per aprire un po' orizzonti che magari l'offerta comune non ha. Sì. Ecco, proprio in questo senso una curiosità rispetto ai due spazi che promuovono questa iniziativa, l'Oberdan e il Museo Interattivo del Cinema, volevo chiederti che tipo di programmazione hanno, non in termini qualitativi ma proprio di proposta, di quantità. Come in un anno? Sì, diciamo sì, settimanalmente ad esempio, come sono strutturate? Beh, settimanalmente noi allo spazio Oberdan facciamo circa 15 film diversi. Ok. Al MIC, che ha una offerta più pomeridiana e festiva, un po' meno. Sì. Però diciamo che nell'arco di un anno sono centinaia e centinaia le proposte di film che facciamo, sì. Per cui davvero ce n'è un po' per tutti i gusti. Sì. E poi insomma, per quanto riguarda lo spazio Oberdan, al di là del riscoprire magari dei capolavori restaurati o dei film muti con la musica dal vivo, sempre di più si sta allargando a delle anteprime o a dei film che il mercato poi italiano non recepisce subito, e che noi magari riusciamo ad avere, non so, per 10-15 giorni in programmazione, per cui anche sotto questo aspetto qua è stimolante, perché si vedono magari prodotti soprattutto esteri di grande interesse, ma che diciamo il circuito tradizionale non digerisce, ecco. Poi immagino che proprio grazie a questa iniziativa nel 2018 questi due spazi avranno un occhio di riguardo proprio indirizzato a questa fascia d'età. Sì. Cercheremo ovviamente di orientare il più possibile verso insomma rassegne, prodotti attenti e sensibili, insomma, non. Però quello poi, sai, alla fine è anche è uno stimolo per noi, è anche un modo per, come dire, non sederci magari su alcune possibili scelte, che una scelta che ha insomma 35.000 titoli può anche sedersi ogni tanto, ma quello di insomma stare un po' sul pezzo, visitare un po' di festival, stare insomma anche sulla stretta contemporaneità, questo sì, è un po' uno stimolo anche per noi, non solo ovviamente per il pubblico, questa fascia di pubblico, ma anche per il pubblico più adulto, il pubblico che ci segue e che presumo stia capendo che la pelle di queste realtà sta cambiando, insomma si sta offrendo comunque prodotti e situazioni un po' diverse rispetto al passato. Senti, in chiusura ci lasci i riferimenti web per saperne di più? Guarda, cinetecamilano.it è il sito, da lì poi ci sono le sale, la programmazione delle sale, che è una programmazione mensile, tutte le modalità d'ingresso, gli eventi speciali, e poi anche c'è l'archivio, il museo, per cui c'è modo per gli appassionati insomma di vedere anche che cosa succede anche oltre diciamo la programmazione dei film. Bene, Allora Matteo, un abbraccio, auguri di grazie buone a voi feste. Ancora, auguri a tutti. E a risentirci nel nuovo anno, magari. Va bene. Ciao, grazie, ciao. Davvero. Ciao, ciao, ciao. Matteo Pavesi sull'iniziativa Al cinema senza pagare, rivolta alla fascia d'età dai 16 ai 19 anni, riguardante le strutture milanesi Spazio Oberdan e Museo Interattivo del Cinema per l'anno 2018. Abbiamo un ultimo contributo, questa volta registrato per un'iniziativa di una 3 giorni che è cominciata il 18, è proseguita il 20 e finirà domani 22 dicembre. Ce ne ha parlato il Piccolo Cinema America e riguarda una struttura, il cinema all'interno dell'Istituto Regina Margherita, l'Istituto Scolastico Regina Margherita qui a Roma, nel quartiere di Trastevere. Sentiamo questa registrazione e poi ci salutiamo. Si parla anche di un'iniziativa nell'ambito di una 3 giorni che si svolgerà domani. Ne parliamo con il Piccolo Cinema America, è un evento che ci interessava perché riguarda due termini, la scuola e il cinema, un abbinamento che sicuramente, chiaramente ci interessa. E allora intanto ben ritrovato su queste frequenze. Ciao a tutti, grazie. E parlaci un po' di questa 3 giorni, come nasce e di cosa si tratta. Allora, è una 3 giorni che nasce da una volontà della scuola Regina Margherita di Trastevere di aprirsi al territorio, una volontà che noi come associazione abbiamo percepito e cercato di valorizzare nel tempo, quindi abbiamo partecipato a questo progetto che si chiama Remo Regina Margherita. Trovate sia il sito che la pagina Facebook con questa dicitura. È una 3 giorni, è ingresso gratuito, la scuola diventa accessibile al territorio e momento fondamentale domani alle 18, si inaugura la piccola sala cinematografica che un tempo veniva utilizzata come sala della scuola, è stata abbandonata per oltre 30 anni in stato di degrado, è stata ristrutturata, resa agibile, montato un nuovo proiettore, pulito il vecchio che sarà esposto con lampada a carbone, 85 posti per una nuova saletta in una scuola di Trastevere. Si tratta di un debutto o era già stato aperto il cinema? Il cinema era aperto tanti anni fa e domani fa il suo nuovo debutto, diciamo. La responsabile di questo progetto che va ringraziata è una docente, Cinzia Russo, con la dirigente della scuola, che come sappiamo spesso si trovano dei dirigenti un pochino più spaventati e che tendono a chiudere le scuole. Questa è stata molto illuminata e brava a riaprirla. Allora, come avete pensato, concepito e organizzato questa 3 giorni? Raccontaci un po' intanto come è andata la prima e poi come saranno le prossime 2. Sono 3 giorni di evento, è stato inaugurato l'archivio ieri, mentre domani ci sarà questo incontro a cui parteciperà anche la scuola Gian Maria Volonté, oltre che noi, alcuni docenti, Francesco Bruni, Vilma Labbate, Pippo Del Bono, e poi ci sarà l'apertura delle classi, delle piccole stanze che sono state allestite da diversi artisti per colorare la scuola e raccontare un po' l'edificio e anche la sua struttura architettonica. Senti, gli studenti e le studentesse in qualche modo hanno contribuito? Allora, io non mi sono occupato esattamente di questa parte okay. E quindi non vi so rispondere okay. Però lo scoprirete venendo, perché la scuola è stata coinvolta e c'è stato anche un grande lavoro dei genitori in tutto questo progetto. Senti, sarà il primo passo di un'apertura più allargata? Sì, l'obiettivo è nelle prossime settimane di avviare una rassegna, stiamo cercando di definire i giorni per tenere la piccola sala cinematografica aperta al territorio. Benissimo. Senti, a questo punto un'altra curiosità era rispetto agli orari, sarà aperta anche fuori dall'ambito orario scolastico? Sì, naturalmente okay. Lì l'obiettivo di questo progetto è che la sala diventi accessibile in orari extracurricolari, anche perché è quello che stiamo cercando politicamente dalle scuole, che come un tempo ritornino ad essere luoghi della formazione al di là dell'orario didattico e quindi riprendano anche il loro valore urbanistico di spazi culturali e sociali. Bene, allora in chiusura dai di nuovo gli appuntamenti e dei riferimenti web per chi volesse saperne esatto. Di più. Esatto, Remo Regina Margherita, ci vediamo domani alle 18 e nuovamente venerdì fino a sera alle 22, che ci sarà anche una festa.